ogni forma di razzismo. Contro ogni razzismo, ogni tipo di discriminazione. Niente fascismo, niente più nazismo. Clandestino, più di quanto credi. Se passo per la società di oggi, i miei occhi non ne vanno fiere mentre vado in giro. Guardi in faccia che ho vicino, penso che sta vita mi ha voluto, c'è un motivo. Chi vende e chi compra, cos'è sta paraonda? Mi ferma la volante, no, non posso aprire bocca. Se ho il colore strano, l'accento no italiano, mi arrestano e per questo voglio ribellarmi in vano. Nessuno che ti aiuta, chi ha paura e chi rifiuta di aver problemi e lascia la sua vita in una buca. Sento un sapore amaro e lo capisco troppo chiaro. Piano piano che cresciamo, questo mondo va in degrado. L'uomo che in fretta parla, glielo spieghi 100 volte, ma ancora non ascolta. La sua ignoranza parla, parla, straparla e non sa cosa comporta. L'uomo che in fretta parla, glielo spieghi 100 volte, ma ancora non ascolta. La sua ignoranza parla, parla, parla, straparla e non sa cosa comporta. Arriva tu in Italia per trovarci uguali agli altri, in cerca di un lavoro e di qualcosa per sfamarci. Scappato dalla guerra e dalla tirannia, ora è chiuso in una via, inseguito dalla polizia. Ma la gente giudica in base all'apparenza, capelli ricci e naso grosso, questa è l'indifferenza. Avviato nella droga o alla prostituzione, oppure si è sfruttati da un padrone per 18 ore. Non è possibile rimanere immobili, i ragazzi vengono bruciati perché sono nomadi. Poi questi vanno in chiesa ma non lo confessano, mentre hanno stato in curva cori razzisti urlano. L'uomo che in fretta parla, glielo spieghi 100 volte, ma ancora non ascolta. La sua ignoranza parla, parla, straparla e non sa cosa comporta. L'uomo che in fretta parla, glielo spieghi 100 volte, ma ancora non ascolta. La sua ignoranza parla, parla, parla, straparla e non sa cosa comporta. Volete un mondo culturale, multiraziale, a tutti i suoi diritti, ognuno il pane da mangiare. E intanto disfruttiamo, ore dopo ore, pagati per restare appesi sopra un cornicione. Bastardo marocchino, spazzatore clandestino, pulisco dove passi, non ti siedo vicino. Scappato dalla fame, scappato dalla guerra, salito su un gommone che non toccherà mai terra. Non c'è posto per te in questa società, non c'è posto per chi vie di uscita non ne ha. Ci voglio cose serie per fermare tutto questo, un buon punto d'inizio e cominciare dal rispetto. L'uomo che in fretta parla, glielo spieghi 100 volte, ma ancora non ascolta. La sua ignoranza parla, parla, straparla e non sa cosa comporta. L'uomo che in fretta parla, glielo spieghi 100 volte, ma ancora non ascolta.